Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Le belle addormentate di Cuore e denari, buongiorno. Beh, stamattina ci siamo risvegliate. Sì, effettivamente con questo clima un po' strano partire la mattina è difficile. E infatti per i denari ci occuperemo anche di questo argomento, perché parliamo in realtà di polizze dormienti, cioè scadute da almeno 5 anni e che non sono state liquidate perché i beneficiari di queste polizze non si presentano alla compagnia di assicurazione per riscattarle. Pare che in Italia ce ne siano davvero tante, almeno 4 milioni di pratiche vacanti. In realtà noi fra un po' preciseremo i contorni di queste cifre che sono circolate in questi giorni, ma soprattutto ci chiederemo com'è possibile che sia maturato questo fenomeno e come è possibile risvegliarle. Se ne hai intestata qualcuna, Nicoletta, dimmelo adesso, perché sennò poi quando scade io non lo so, sta lì e la compagnia se la tiene. Sveglia quindi, perché chi dorme non piglia pesci e non piglia soldi. Sì. Ecco, e nella parte di denari invece non diremo sveglia, ma diremo bevete, perché chi non beve, soprattutto di questi tempi, rischia grosso. Diciamo che un po' la morale, il tema della parte di cuore in cui parleremo di acqua, di sete, di attività sportiva, ma anche di reni e di calcoli. Questa è una stagione a rischio per chi ne soffre, prevenire è meglio che soffrire in questo caso, e quindi direi che possiamo partire, voilà. Ci siamo accorti che ci sono un sacco di polizze vita cosiddette dormienti, cioè scadute, ma nessuno si è presentato a richiedere la prestazione, il beneficio, il pagamento, perché in molti casi il beneficiario non sa di esserlo. In molti casi non per cattiva volontà delle compagnie stesse, ma perché appunto le norme forse sono imperfette. Quindi noi questa cosa l'abbiamo segnalata al governo. Le compagnie si trincerano giustamente dietro norme che dicono se io non so se chi ha sottoscritto la polizza è morto, non è morto, prima o dopo la scadenza della polizza, non è un problema mio. È un problema del beneficiario eventuale che non si fa vivo. Noi pensiamo che non sia esattamente così, che in realtà diciamo, la gente vada a chi ha stipulato la polizza e chi ha diritto, quindi il superstite, chi ha diritto alla prestazione, vada in qualche modo aiutato a riscuoterla questa prestazione. Quindi le compagnie vadano incentivate o forzate in qualche caso darsi da fare. Allora, la voce che avete sentito era quella di Salvatore Rossi, presidente dell'IVAS, l'autorità di vigilanza sul mercato assicurativo, che venerdì scorso ha tenuto la sua relazione annuale. In un linguaggio non propriamente tecnico ha parlato di un sacco di polizze non riscosse. E allora, le cifre che sono circolate poi e che in realtà ha divulgato proprio lo stesso Rossi nella conferenza stampa che ha anticipato la relazione annuale appunto dell'IVAS, ha parlato di almeno 4 miliardi di euro che riposano senza che nessuno li rivendichi nelle casse delle assicurazioni italiane. Nessuno, Nicoletta, che li vada a riscuotere. Ci andiamo noi se proprio loro fa fatica. Se si affaticano con questo caldo. Allora, comunque, questa situazione, data la cifra che è circolata, ha davvero dell'incredibile. Oggi, ieri ve lo avevamo anticipato, allora parliamo di queste polizze vita dormienti scadute, cioè da almeno 5 anni, e che non sono state liquidate, non vengono liquidate perché i beneficiari non si presentano per tutta una serie di ragioni possibili alla compagnia di assicurazione appunto per riscattare queste polizze. L'ente, l'IVAS, come sentivate anche dalle parole del presidente Rossi, vorrebbe risolvere il problema, chiede l'intervento del governo, e allora noi stamattina cercheremo di capire cosa sarebbe necessario che il governo facesse per risolvere questo problema e come si attivano le compagnie di assicurazione per risvegliarle quando sono nelle condizioni di poterlo fare. Naturalmente anche le associazioni dei consumatori vigilano attentamente sulla questione, per cui noi stamattina abbiamo messo insieme intanto Luigi Di Falco, responsabile del servizio Vita e Welfare e della Commissione Permanente Vita e Welfare appunto dell'ANIA, l'Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione, che salutiamo. Dottor Di Falco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. E Paolo Petri, responsabile settore assicurativo dell'Associazione dei Consumatori Consumer, con la K, ricordiamolo sempre attentamente. Petri, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. 800 24 00 24, numero verde per gli interventi degli ascoltatori, per i vostri interventi. Se in qualche maniera la questione vi incuriosisce, se volete sapere qualcosa in più rispetto magari ad una polizza sottoscritta da parte di un vostro congiunto di cui voi sareste teoricamente beneficiari. Ieri, quando abbiamo fatto l'esempio della Raggi, molti ascoltatori si sono inalberati perché hanno così parlato di una nostra considerazione politica. In realtà è l'ultimo caso clamoroso di cronaca che ci ha dato modo di parlare anche di queste polizze, quando vengono sottoscritte da una persona ma il beneficiario è un altro, perché anche quelle rischiano di diventare dormienti. Se tu non lo sai, non le vai a riscuotere, giustamente. Petri, voglio cominciare da lei, con le associazioni dei consumatori, perché, come abbiamo sentito, l'IVAS vorrebbe un intervento di legge e una risoluzione del governo. Voi intanto incontrerete l'IVAS proprio nei prossimi giorni. Che cosa ne pensate di questa vicenda? Cosa avete intenzione di dire all'IVAS e come avete intenzione appunto di affrontare questa questione che, date le cifre, sembra essere diventata veramente di estrema attualità? Sicuramente. Noi con IVAS ne abbiamo già parlato, ne abbiamo parlato anche con l'ANIA e con le imprese, perché proprio su impulso dell'IVAS è stato sollevato questo problema e è stata anche organizzata questa ricerca con le compagnie, che è terminata il 31 di maggio e che sta fornendo questi dati che si potevano immaginare, ma che certo adesso c'è la conferma anche della statistica. Quindi noi siamo d'accordo con l'impostazione, ma penso che sarà d'accordo anche l'ANIA, quella cioè di chiedere al legislatore di poter costruire anche nel nostro paese una anagrafica nazionale alla quale le compagnie possono accedere, e per verificare se il beneficiario, l'assicurato o quant'altro previsto dalla polizza è ancora in vita o meno. Quindi questo è un provvedimento non complesso, ma che consentirebbe alle compagnie di poter fare questa verifica, e a quel punto, se non la facessero, potremmo dire che magari non hanno espletato tutti i tentativi che dovevano fare, anche perché c'è da ricordare che, mentre una volta, tanti anni fa, i premi rimanevano nella pancia delle compagnie, adesso, alla scadenza della prescrizione, le compagnie lo debbono versare alla Consap. Esatto, quindi, dove esiste questo fondo, esatto, che è stato costituito negli anni passati, lo ricordiamo, se sì, non ricordo male, è stata un'iniziativa del governo del ministro Tremonti, che costituì praticamente questo fondo, sì, utilizzando le risorse degli strumenti dormienti per alimentare, per questo fondo destinato alle vittime dei crack finanziari. Adesso ci torniamo su questo, Petri. Volevo però far fare anche un primo commento a Di Falco prima della nostra prima pausa, che arriva a brevissimo, sentiremo il traffico. Il tema sono le cifre, dottor Di Falco, perché noi 4 milioni di pratiche non liquidate per un ammontare di 4 miliardi di euro in pancia alle compagnie di assicurazione ci sembrano delle cifre notevoli, insomma. Sono queste? Risulta anche a voi? Noi abbiamo chiesto alle nostre imprese di inviarci gli stessi dati che hanno inviato all'istituto, quindi abbiamo raccolto il 100% di riscontri e le cifre vanno un po' interpretate meglio, a nostro parere, rispetto a quanto è stato diffuso da molte testate. Le polizze già dormienti, cioè quelle per le quali purtroppo si è già prescritto il diritto del beneficiario, non sono 4 milioni ma sono 1782. di quelle statisticate, cioè circa 15 milioni di polizze vita scadute negli ultimi 5 anni. Sono invece intorno alla cifra riferita, 4 milioni, quelle per le quali effettivamente l'impresa non ha avuto notizia né del decesso né una richiesta di prestazione da parte del beneficiario. Però di queste, quasi tutte, 3 milioni e 9, sono assicurazioni temporanee casomorte. Queste assicurazioni, come si sa, sono spesso stipulate in abbinamento a finanziamenti ed è difficile pensare che il beneficiario, che sia la banca o gli eredi che si accollano il debito, non si siano fatti vivi per estinguere il debito residuo. Quindi si tratterà, nella maggior parte dei casi, di situazioni in cui l'assicurato è giunto in vita a scadenza e la polizza, che prevede una prestazione solo in caso di morte, semplicemente non prevede alcuna prestazione a scadenza. Quindi non si tratta di polizze. Non ha dovuto esplicitare i suoi effetti, sostanzialmente. Non c'è nessuna prestazione dovuta alla scadenza. Detto questo, però, siamo allineatissimi con quanto riferito dal collega di Consumer e quanto indicato dall'IVAS, nel senso che occorre che le imprese non solo possano, ma debbano, noi siamo disposti a dover essere assoggettati a un obbligo di dover consultare un'anagrafe nella quale verificare se i nostri assicurati sono in vita o no, perché noi vogliamo pagare le nostre prestazioni. Sarebbe paradossale che il settore assicurativo, che vuole distinguersi per la garanzia delle prestazioni che eroga, non volesse pagare le prestazioni contrattuali. Allora, adesso ci arriviamo a questa istituenda anagrafe nazionale della popolazione residente, che è lo strumento che potrebbe risolvere anche il tema di cui parliamo questa mattina, il risveglio delle polizze dormienti non risvegliate appunto dai legittimi intestatari. Ci arriviamo tra un istante, subito dopo il traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Cuore e Denari. Principessina, se la triste profezia si avverasse, bimba mia, non per questo morirai, ma nel sonno tu cadrai, e il tuo sonno cesserà se l'amor ti bacerà. Sia questo il più fulgido dei tuoi doni, che la speranza mai ti abbandoni. Cerchiamo di alleggerire così i nostri temi di denari, che qualche volta sono un po' complicati appunto da far comprendere ai nostri ascoltatori. Abbiamo scomodato la bella addormentata nel bosco per affrontare stamattina il tema delle polizze dormienti, cioè strumenti di assicurazione sottoscritti naturalmente da molti italiani, dalle famiglie italiane, che spesso però, una volta sottoscritte e alimentate, si dimenticano. Magari il contraente chiaramente viene a mancare, il beneficiario non si fa vivo. E quindi questo è un tema appunto che puntualmente viene sollevato, dato l'ammontare anche del denaro che sarebbe nei bilanci appunto delle assicurazioni derivante da questo pacchetto appunto di polizze dormienti. Questa mattina ne stiamo parlando per conto dell'ANIA con il dottor Luigi Di Falco e con Paolo Petri di Consumer, Associazione dei Consumatori, e poi naturalmente i microfoni aperti ai nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Un problema per risolvere questa faccenda sarebbe quella di consentire all'ANIA, ci diceva Di Falco poco fa, di accedere alla costituenda anagrafe nazionale della popolazione residente, e anzi, dottor Di Falco, magari la legge potrebbe addirittura rendere obbligatoria, no, la consultazione almeno una volta l'anno di questa anagrafe. Ci spiega però in questo momento esattamente quando una polizza va a scadenza e se nessuno appunto si va vivo, ma la compagnia o l'assicuratore, ecco, che è la persona con la quale una famiglia si interfaccia ancora ama molto farlo, perché sappiamo appunto che c'è una stretta relazione tra italiani, famiglie e l'agente di assicurazione. Non ha nessun obbligo l'agente di farsi vivo con la famiglia appunto del contraente per ricordare e segnalare che la polizza è andata in scadenza? Sì, è previsto un obbligo dal regolamento IVAS numero 35 di avvisare i clienti prima della scadenza che sta per arrivare, quindi di attivarsi per riscuotere la prestazione assicurata. In effetti, dai dati relativi all'indagine IVAS che anche noi abbiamo, risulta che su questa tipologia di contratti, nei quali quindi c'è una scadenza e c'è una prestazione a scadenza, quasi tutte le polizze sono state liquidate. Ne restano su gli oltre 7 milioni circa 200.000, per le quali effettivamente la compagnia non ha ricevuto né una notifica di eventuale decesso dell'assicurato prima della scadenza, né una richiesta di scadenza. Se avesse la possibilità di accedere all'anagrafe nazionale della popolazione residente, queste 200.000 secondo lei diventerebbero quante? Diventerebbero, allora, già oggi noi cerchiamo come settore di ridurre questo numero, e abbiamo da tempo attivato sul nostro sito un servizio di ricerca polizze vita. Tra l'altro, da stamattina è linkato anche al sito dell'IVAS, che ha dato indicazioni a tutti i consumatori di riferirsi al nostro servizio per ritrovare polizze vita che eventualmente sanno che magari il papà ha stipulato ma non sanno bene con chi. Quindi da questo punto di vista il settore, nelle condizioni date, sta facendo il possibile. Dopodiché, qualora ci fosse fosse concesso e anzi obbligato di consultare una anagrafe su l'esistenza in vita degli assicurati, questo numero si annullerebbe. Certo. Petri, cosa ne pensi insomma di tutto questo meccanismo che comunque mi pare che il sistema abbia messo in atto, provi a mettere in atto appunto per risolvere la questione delle polizze dormienti, perché naturalmente è denaro legittimamente di cui le famiglie italiane sono titolari, regolarmente versato in questi anni, di cui naturalmente le famiglie debbono rientrare appunto in piena titolarità. Sicuramente, ma io sono convinto che appunto se riusciremo tutti quanti insieme a spingere verso questa anagrafe e a prevedere che poi la compagnia la debba anche verificare e consultare, il problema sarà risolto in breve tempo. Devo dire ad Orbero che l'ANIA da sempre ha avuto questo servizio al quale gli assicurati potevano rivolgersi per richiedere se per caso un loro congiunto era assicurato in una delle compagnie. Adesso appunto è previsto proprio, come diceva il dottor Di Falco precedentemente, nel sito dell'IVAS, che ha emanato un comunicato stampa il giorno 27, proprio ieri, e quindi voglio dire adesso c'è anche questa indicazione da parte dell'IVAS, e quindi a maggior ragione io invito tutti quanti i cittadini che hanno questo dubbio a porre in essere quelli che sono gli accorgimenti e suggerimenti che da IVAS, che sono di buon senso. Esatto. E che sicuramente... Perché a questo punto, una volta commentata tutta la faccenda, ridimensionate anche le cifre che sono circolate nei giorni scorsi, il tema adesso è capire che suggerimenti possiamo dare alle famiglie italiane che A, vogliono contrarre strumenti assicurativi di questo tipo e evitare che in futuro diventino dormienti. Se c'è il sospetto, tra virgolette, la sensazione in famiglia che magari un congiunto abbia sottoscritto in passato uno strumento di questo tipo e adesso di questo strumento si sono perse le tracce perché è finito in un cassetto, perché la persona è venuta a mancare, cosa si può fare anche per fare un accertamento in questo senso? Adesso ci arriviamo, vi propongo un paio di riflessioni di due ascoltatori ai quali magari rispondiamo dopo il giornale radio. Li metto intanto insieme. Ida da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno, io ho trovato fra le carte di mio papà, che è deceduto parecchi anni fa, una polizza dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. È datata 3 maggio 57, però lui ha versato le rate, ma io avendo chiesto più di una volta all'agenzia locale il rimborso delle quote versate, mi ha detto che tutto era finito al macero e che non era più possibile. Allora, diciamo che una polizza stipulata nel 57 è leggermente caduta in prescrizione, però Ida in realtà più volte si è fatta viva con la compagnia e quindi bisogna capire se questa sua iniziativa ha interrotto i termini di prescrizione. Comunque nel 57 è molto indietro nel tempo. Ida, adesso ci arriviamo, ci metto anche insieme Roberto da Milano. Roberto, benvenuto. Buongiorno. Io capisco perché tante polizze sono dormienti, sì. Il mio caso è zia deceduta a gennaio di quest'anno con conto presso Intesa San Paolo, presentati col certificato di morte, la banca non ci aveva neanche detto che aveva la polizza, abbiamo dovuto estorcere l'informazione. Ah. Una volta capito che c'era una polizza, abbiamo chiesto quale fosse il beneficiario e loro ci hanno detto che non erano in grado di dirlo e non potevano dirlo per privacy. Per questione di privacy. Per Roberto, questione di privacy. Allora, però, guardi, prima... detto, ma come facciamo a capire che il beneficiario? Dovete chiamare poi Intesa Vita e dovete avere il numero della polizza. Ma noi non abbiamo il numero della polizza. Come si fa adesso a capire come sapere chi è il beneficiario? Che loro lo sanno benissimo. Roberto, sì, aspetti lì. Allora, guardi, dottor Di Falco, prima di andare al giornale radio abbiamo un minuto di tempo, una prima risposta a Roberto, possiamo darlo, è corretto il comportamento in questo caso? Qui parliamo di banca assicurazione perché era ad uno sportello bancario, una polizza sottoscritta presso la compagnia della banca. Dottor Di Falco. Ma non conosco esattamente sì, il caso, certo, ma comunque sulla base di quello che la banca è, se la banca è il distributore di quella polizza, deve fornire tutta l'assistenza possibile al cliente in maniera precisa, in modo tale che il cliente possa esercitare i suoi diritti, quindi da questo punto di vista, se il signor Roberto non ha avuto soddisfazione, ha ragione di lamentarsi. E certo, intanto ci sono dei canali istituzionali presso i quali rivolgersi, i servizi clienti naturalmente dei due, sia della banca che della compagnia di assicurazione. Roberto, poi c'è anche Cuore Denari, ci scriva, magari andremo a caccia di maggiori informazioni, ma la banca e la compagnia devono darle tutte le informazioni che vi servono. Adesso c'è il giornale radio, ma torniamo su questo tema tra pochissimo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Eh beh, come al solito i nostri assistenti al programma si sono sbizzarriti nel corredo musicale della trasmissione. Stiamo parlando questa mattina di polizze dormienti, dopo che l'IVASS, l'autorità di vigilanza sul mercato assicurativo, è tornata a ribadire appunto quanto già in realtà aveva detto all'inizio dell'anno, quando era stata fatta partire questa indagine sulle polizze che non vengono liquidate ai beneficiari e che giacciono presso le imprese di assicurazione, polizze già prescritte o in attesa della prescrizione. Le cifre fornite dall'IVASS sono assolutamente importanti: 4 milioni di pratiche per 4 miliardi di euro non riscossi. In realtà poi con il dirigente dell'ANIA questa mattina, il dottor Luigi Di Falco, abbiamo un po' circoscritto i termini della questione. Detto questo, il tema c'è, perché molto spesso questi strumenti assicurativi vengono sottoscritti da persone che non lo comunicano magari ai eredi possibili, ai beneficiari, e quindi se vengono a mancare questi strumenti rimangono naturalmente presso le polizze di assicurazione, e sono cifre appunto ragguardevoli dei quali i familiari evidentemente vorrebbero rientrare in possesso. Insomma, un tema abbastanza complicato e delicato, comunque molto di attualità. Ricordiamo che i diritti che derivano dalle polizze vita si prescrivono in 10 anni, e da qui ripartiamo per commentare il caso invece dell'ascoltatrice di Reggio Emilia, Ida, che ci aveva detto che suo papà aveva sottoscritto una polizza presso l'INA nel maggio del 57. Lei più volte è andata presso la compagnia per capire come rientrare nella titolarità di questo denaro, ma le hanno detto che non si poteva fare più niente, perché addirittura tutto era andato al macero. Con noi c'è anche Paolo Petri di Consumer. Stamattina, Petri, per questa persona cosa possiamo dire? Ma voglio dire, 60 anni sono tanti, non sono pochi. Bisogna capire, quando la signora si è presentata e ha richiesto le cose che ci ha detto per telefono, e quindi se ci potesse mandare la documentazione, potessimo verificare, certo. Anche se così da chitto mi sembra che 60 anni sono tanti. Sono tanti. Mi permetto? Sì. Sì, volevo segnalare soltanto un aspetto, se mi è consentito, che deriva dalla relazione dell'IVASS, no? Perché io ritengo che nell'ANIA ci sia poi la volontà di trovare delle soluzioni, ma evidentemente all'interno delle compagnie qualche problemino c'è, perché questi dati che fornisce l'IVASS, per esempio, per quanto attiene le assicurazioni a vita intera, cioè senza una scadenza definita, sì, a fine 2016 ben 430.000 di queste polizze riguardavano persone con più di 90 anni e oltre 2.500 polizze, come dice IVASS, riguardano persone che hanno più di 100 anni. Guardi, Petri, la interrompo solo perché mi ha dato un assist perfetto, perché era un tema che in realtà con Di Falco volevamo affrontare, andare proprio a affrontare anche la questione delle polizze vita intera. Quindi la lascio completare, quindi no, per dovere. Sì, no, a me mi veniva in mente una pubblicità di un po' di tempo fa che diceva una telefonata allunga la vita. Questo è uno spot incredibile, perché si potrebbe dire che una polizza allunga la vita. Visto, portano però fortuna. Forse dovremmo invece arrivare a un'altra conclusione. E cioè che qualche compagnia forse ci dorme su queste polizze, perché queste sono polizze a vita intera, non eterne, e quindi bisogna pure capire che 430.000 oltre i 90 anni e 2.500 persone oltre i 100 anni, forse c'è qualcosa che non quadra. Allora, certo, è di vero Falco, che siamo il paese più longevo d'Europa. Il più longevo al mondo dopo il Giappone, esatto. Sì. Di Falco, allora, un conto sono quelle polizze di cui parlavamo prima, collegate in qualche maniera magari a strumenti di finanziamento, ai mutui e quant'altro. Le polizze vita intera sono un altro tema appunto rilevante e fa bene Petri a sollevarlo. Che differenza c'è fra i due mondi? Ci spiega cosa ne pensa dell'osservazione fatta dal rappresentante dell'Associazione dei Consumatori sulle vita intera. Ma le polizze vita intera sono analoghe a quelle con una scadenza, semplicemente non hanno una scadenza predefinita, sono comunque delle polizze ad accumulo che comunque riscuotono negli ultimi anni il favore degli assicurati, dei clienti, perché generalmente sono polizze a rendimento minimo garantito e un extra rendimento che negli ultimi anni è stato comunque sempre superiore al 3-3,5% in media. Vengono pagate a premio unico, ad un premio unico iniziale? Di norma, oppure sì, di norma premio unico, negli ultimi anni sono quasi tutte a premio unico. È anche vero che ci sono, bisogna dire che la longevità, per fortuna, della nostra popolazione è aumentata. E teoricamente sarebbe anche possibile che di quei 2500 contratti di ultracentenari molti siano in vita, perché in Italia ci sono 17.000 ultracentenari. Però detto magari questo, non hanno le condizioni fisiche, mentali per poter telefonare all'assicuratore e dire... Quello dal punto di vista della polizza non conta molto, perché sono polizze vita, quindi l'unica prestazione prevista è in caso di decesso dell'assicurato. Con tutto il rispetto ovviamente per le condizioni eventualmente di difficoltà di queste persone. Detto questo, come già dicevo prima, noi non disconosciamo che un problema può esistere. Il problema però non è tanto nel fatto che le compagnie ci tengono a mantenere questi contratti nel proprio portafoglio, quanto alla effettiva impossibilità in molti casi di poter sapere se l'assicurato è venuto o meno, perché non arriva nessuna richiesta e perché le compagnie, al di là di quello che possono fare tramite i propri intermediari sul territorio o cercando di avere notizie sui propri portafogli se magari l'assicurato ha anche altre polizze, non hanno altre armi. Sarebbe quindi è ormai necessario, ineludibile per noi far sì che anche in Italia, come in altri paesi, come si diceva, sia consentito consultare. Certo, le ma senta, a parte la possibilità per le compagnie di assicurazione di accedere all'eventuale anagrafe nazionale della popolazione residente, non potrebbe esistere un altro modo per periodicamente andare a sollecitare le famiglie, ricordare o i sottoscrittori, guardate che questa polizza fra un anno va a scadenza, fra tre mesi va a scadenza, fra sei mesi, e in modo tale appunto di non arrivare poi a quel momento in cui si perdono le tracce della polizza e nessuno la va a riscuotere. Di Falco. È previsto dalla regolamentazione dell'istituto, questo ovviamente è un obbligo che va comunque valutato nell'ottica del nostro istituto di vigilanza. Perché Rossi ha detto proprio alle compagnie: siate un po' più proattive adesso, a prescindere dalla mancanza di certi strumenti legislativi che vi inviterebbero un po' di più ad essere così attivi nei confronti degli assicurati, ma insomma magari strumenti di auto di attività diretta appunto con gli assicurati, no? Di Falco. Questo le compagnie lo fanno e l'hanno anche fatto su stimolo dell'istituto di vigilanza proprio in occasione dell'indagine sulle polizze dormienti. Lo stesso istituto, lo stesso presidente Rossi ha riferito come molte imprese poi si siano anche attivate per avuto contezza, diciamo, della possibilità di molte polizze che rischiano di diminuire i dormienti, hanno attivato delle verifiche anche incrociate sulle polizze eventualmente esistenti della stessa persona, magari per altri rami, per coperture sull'RC auto o altro tipo di contratti, dalle quali si può desumere che effettivamente quella persona è in vita o no. Però al di là di questi strumenti un po' fatti in casa, servirebbe per risolvere veramente il problema, anche nei numeri che abbiamo evidenziato oggi, uno strumento più efficace, che è quello di, lo ripetiamo, dare la possibilità effettivamente di sapere una persona è mancata o no, perché ormai quando una persona è deceduta non ci sono più tutte le ragioni di privacy e di riservatezza che spesso poi chiarissimo vengono opposte rispetto a una persona che è venuta a mancare. Dottor Di Falco, lo dico anche a Petri, dobbiamo andare verso la chiusura, ci metto la domanda di Giorgio da Milano perché ci dà un altro assist per andare a commentare un'altra notizia di cronaca proprio di questi giorni. Giorgio, benvenuto, rapidissimo, mi raccomando. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma sì, io mi sono ricollegato al discorso dell'assicurazione perché volevo capire quali fossero i razionali che stavano dietro la decisione del governo di abolire il divieto del tacito rinnovo sulle polizze RCA, cioè un'altra tutela all'assicurazione. Esatto, era un provvedimento che era stato introdotto dal governo Monti nel 2012, però Giorgio, in realtà non è stata presa nessuna decisione dal governo, si tratta di un emendamento proposto da un parlamentare del PD, la Laura Puppato, se non sbaglio, dottor Di Falco, al decreto legge sulla concorrenza di cui si sta discutendo, che è già stato approvato dalla Commissione Attività Produttive della Camera. In un minuto di tempo, cortesemente, ci ribadisce la questione, a che punto è? Ma il problema proprio non sussiste, c'è un gigantesco equivoco, la questione non riguarda le coperture RC auto, riguarda gli altri rami danni diversi dall'auto, polizze di norma non obbligatorie, la polizza sulla casa, sulla salute, per cui l'emendamento approvato sul DDL concorrenza ha riportato tutto alla situazione attualmente in vigore, cioè mentre per l'RC auto esiste già il divieto di tacito rinnovo e nessuno lo tocca, quindi ogni anno la polizza scade e deve essere rinnovata esplicitamente dall'assicurato, se vuole con quella compagnia, se vuole cambia. Su tutto il resto esiste la possibilità da parte dell'impresa di assicurazione degli assicurati di prevedere un rinnovo tacito che spesso, come hanno detto anche l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, molte associazioni di consumatori e noi, è un vantaggio nei confronti degli assicurati, perché si pensi alle polizze malattia, se io stipulo oggi una polizza che prevede una durata pluriennale, sono sicuro che le condizioni sono quelle di oggi, se invece devo automaticamente rinnovare ogni anno la polizza che scade, rischio che magari nel corso della copertura mi ammalo e la compagnia o non mi assicura più o mi assicura a un prezzo maggiore. Benissimo, intanto abbiamo precisato la questione legata all'RC auto. Dottor Di Falco, vedremo che fine farà il provvedimento sulla concorrenza e vedremo se prossimamente sarà il caso di tornare anche su questo tema. Intanto ringrazio Luigi Di Falco dell'ANI e Paolo Petri di Consumer. Dobbiamo andare alla parte di cuore, ma parliamo ancora di sonno? No, volendo sì, ecco, tu parlavi di risveglio, cosa fanno tanti italiani seguendo anche i consigli di Cuore Denari? A risveglio la mattina si bevono un bel bicchiere d'acqua. Acqua cassata a Garganella! Arriva. Acqua cassata. Ecco l'acqua. Ecco, è arrivata. Acqua cassata. Sì, è arrivata. Acqua cassata. E voi bevete solo quando avete sete o bevete indipendentemente dallo stimolo della sete che avvertite? E sapreste dirmi soprattutto oggi quanta acqua bevete nel corso di una giornata? Proviamo un po' a fare due calcoli, quantifichiamo i bicchieri o se preferite andiamo a bottiglie e bottigliette, aggiungiamo però un altro dettaglio che potrebbe essere magari importante, cerchiamo di capire se e in quale momento della giornata beviamo di più, al mattino? Abbiamo detto, molte persone al risveglio si prendono proprio un bel bicchiere d'acqua per sfruttarne l'effetto depurativo. Capiremo con il nostro esperto se funziona davvero così. C'è chi beve magari di più ai pasti o si tiene lontano dai pasti, perché molti dicono che bere durante i pasti gonfi. Cercheremo di capire se è vero, oppure si beve di più verso sera. Allora, proviamo quindi a fare oggi un bilancio, Deborah, un termine che ritorna spesso a me caro. Ecco, facciamo un bilancio delle entrate e delle uscite, di quanto beviamo e di quanto eliminiamo. Insomma, noi lo sappiamo, non deve dircelo il medico, che l'acqua è indispensabile, perché non esiste una parte di noi, del nostro organismo, che può farne a meno. E con questo caldo, soprattutto, non si può fare a meno di bere per non rischiare di rimanere in riserva. Voi siete d'accordo? 800 24 00 24, se volete parlarne con noi, il nostro numero verde è a vostra disposizione e anche il nostro esperto che è tornato a trovarci, il professor Pier Giorgio Messa, direttore dell'unità operativa di nefrologia e trapianto renale presso l'ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi tutti. Allora, professore, se il nostro organismo è una macchina, l'acqua per certi versi è la sua benzina. Una benzina naturalmente particolare perché non inquina, anzi pulisce, aiuta l'eliminazione di scorie, diciamo sostanze tossiche dal nostro organismo e poi trasporti nutrienti e lubrifica. Fa tutte queste cose, ma forse ancora di più, professor Messa. Sì, ovviamente non ci dimentichiamo che noi siamo costituiti per il gran parte percentuale del nostro organismo è fatto di acqua. Certo. E il rene è un po' quello, è l'organo deputato a mantenere e tenere sotto controllo la quantità di acqua che è presente nel nostro organismo. Ma non ci dimentichiamo neppure di un'altra cosa, i reni hanno bisogno di un minimo di quantità d'acqua per poter eliminare le sostanze ovviamente nocive che si producono quotidianamente in ognuno di noi. Quindi quella quantità minima di acqua il rene sicuramente richiede a noi che si introduca. Come vedremo poi e come diremo sicuramente in seguito, questo minimo di quantità non è quello auspicabile che ognuno di noi introduca, ma certamente i reni hanno bisogno, proprio come necessità per il loro funzionamento, di avere quantomeno un minimo di quantità d'acqua, altrimenti fatalmente noi continueremo a perderne questa quantità di perdita obbligata d'acqua, perdendo le nostre scorte d'acqua, in altre parole disidratandoci. Quindi sono organi, è una coppia di organi che va un po' ad acqua. Ecco, diciamo così. L'acqua hanno un bisogno assolutamente necessario. Allora, il messaggio di oggi è un messaggio di buon senso, ma fino a un certo punto, perché insomma è facile capire anche da quello che ci ha spiegato il professor Messa che non bisogna andare in riserva. E lo stimolo della sete è proprio la spia rossa, per ritornare alla nostra macchina, che lampeggia sul cruscotto, ma a volte non la vediamo. Professore, ci sono delle persone che nonostante il caldo, nonostante le raccomandazioni, gli inviti, non hanno sete e devono proprio sforzarsi a bere. Come mai, professore? Sappiamo che gli anziani e i bambini tendono ad avere uno stimolo della sete non proprio efficiente, ma non sono solamente queste due categorie di persone. Ci sono proprio, io ho anche degli amici, abbiamo dei colleghi che dicono ma io sinceramente non ho mai sete e quando mi sforzo faccio quasi fatica. Stanno arrivando i messaggi, intanto vi ringrazio, al 349-238-6666 via WhatsApp, di persone che dicono mi viene quasi nausea se bevo. Professor Messa, perché? Sì, è evidente che ci sono delle condizioni individuali e di abitudini di vita che molto spesso iniziano sin dalla prima fase infantile. Quindi se vogliamo escludere quelle categorie che lei ha già citato, cioè i pazienti molto anziani o comunque anziani o i bambini che hanno in ogni caso un senso della sete sicuramente in qualche modo differenziato, c'è in tutti noi un'abitudine diversa che è in qualche modo in parte, solo in parte geneticamente trasmessa, per il più delle volte è legata ad una abitudinarietà. Si sa che chi è abituato a bere di più certamente ha più voglia di bere e viceversa chi è abituato a ber poco molto spesso quando assume una quantità d'acqua anche moderatamente aumentata rispetto a quella che usualmente consuma ha sensazioni di nausea. Questo ha anche delle motivazioni, delle spiegazioni fisiopatologiche. Ognuno di noi ha delle soglie di sensibilità per tutti i sintomi e per tutti gli stimoli e quindi anche la sete non diciamo fa eccezione a questo tipo di regola fisiologica. Si tratta di abituarsi molto spesso a bere di più e questa abitudine si acquisisce nel tempo incrementando man mano e pian pianino le quantità d'acqua che si assumono. Perché ecco, attenzione che, professore, mi dica se è corretto, quello che noi a volte scambiamo come sintomo di fame, oddio fame, in realtà è il sintomo della sete mascherata sotto mentite spoglie, tanto che bevendo un bicchiere d'acqua ci rendiamo conto che poi non è che abbiamo tutta questa fame da lupi. Ecco, professore. Certo, a volte sicuramente questi possono essere sintomi che si mascherano e che in qualche modo appaiono in modo non estremamente facilmente leggibile. È chiaro che poi stiamo parlando della fisiologia, esistono condizioni di patologia legata, cioè di vera e propria malattia, in cui esistono delle condizioni in cui i volumi del nostro organismo, cioè la quantità d'acqua e di sali del nostro organismo, sono differentemente presenti e in questi casi il sintomo della sete è sicuramente fortemente alterato, sia in senso di una diminuzione sia in senso di un aumento. Ma ora parliamo proprio della fisiologia, della differenza della sensazione di 27 che ognuno di noi ha. In generale, molto spesso, questo è legato alle abitudini alimentari, ma anche alle abitudini di vita, ma certo, anche al lavoro che si fa. Esatto. Per esempio, un soggetto che ha un lavoro che lo impegna per tutta la giornata, pian piano si abitua a non bere o a bere sempre meno, e il suo senso della sete si andrà riducendo. Soggetti che invece hanno maggiore disponibilità di poter bere anche durante tutta la giornata, non dimentichiamoci che bere di più vuol dire anche ovviamente dover andare a avere una minzione più frequente. Ecco, vedi, qua entra il nefrologo, è perché quello che beviamo esce, professor Messa. E certo, e ci sono persone che però, soprattutto in questo periodo, si trattengono dal bere perché sudano tanto, e allora, dato che non vogliono apparire tutti sudati, perché il sudore in alcuni casi, soprattutto quando è abbondante e visibile, crea un po' di disagio, si trattengono. Ma abbiamo intanto Giuseppe da Cesena che tengo lì. Giuseppe, intanto grazie per aver chiamato Cuore Denari. Professore, si legge, si sente raccomandare dagli esperti di assumere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno. Ma è una quantità standard, unisex, taglia unica per tutte le età, o varia da persona a persona a seconda di vari fattori? Lei li ha ricordati, ad esempio il lavoro, ma anche l'attività fisica, la quantità di sudore persa. Perché che dice? Assolutamente sì, non esiste una quantità fissa. Quello che noi possiamo dire è quanto sarebbe giusto urinare ogni giorno. Noi dovremmo assicurare una quantità d'acqua che ci permetta una diuresi di almeno, cioè una quantità totale di urina nella giornata, di almeno 1,5 litri, possibilmente anche di più, come poi avremo modo magari dopo di dire sulla calcolosi, ma parliamo delle soggetti di un soggetto normale. Questa quantità è evidente che è molto influenzata dalle abitudini di vita. Per esempio, se io sono in un clima molto caldo e specialmente ventilato, dove al contrario di quanto si pensa, anche se io non percepisco di aver sudato, ma ho perso molto più acqua di quando in un ambiente umido, il sudore mi rimane tutto addosso, appiccicato, e lo valuto di più. Ma in ambienti ventilati, adesso in estate questo è molto frequente, su spiagge ventilate, ma assolate, sulle barche o comunque in ogni caso in condizioni in cui la evaporazione è molto rapida, io non percepisco la quantità d'acqua e di sali che sto perdendo e mi quindi idrato molto di più. Rischio di andare in riserva. Molto di più. Allora, dite a quelle persone che fanno fatica o non vogliono bere che se provassero una colica renale cambierebbero subito idea. No, allora, professore, questo entriamo nel suo, ma parleremo anche di acqua. C'è chi beve quella del, come chiamo io, a centimetro zero del sindaco. Sindaco. Utilizza i filtri, chi invece la compra in bottiglia, acqua minerale, quale scegliere, perché gasata oppure senza bollicine. A tra poco insieme al professor Messa, dopo i mercati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani. L'importante è bere, non andare in riserva d'acqua. Ne stiamo parlando oggi insieme al professor Pier Giorgio Messa, direttore dell'unità operativa di nefrologia e trapianto renale presso l'ospedale Maggiore Policlinico di Milano, e con gli ascoltatori di Cuore Denari che stanno intervenendo all'800 24 0024. Professor Messa, naturalmente noi ci idratiamo non solo attraverso l'assunzione di liquidi, ma anche attraverso l'alimentazione. Frutta e verdura contengono acqua, e ci sono alcuni ascoltatori che sollevano appunto questo aspetto. Io non bevo, ma mangio molta frutta, provo grande soddisfazione a mangiare dei bei piattoni di verdura e sono idratato ugualmente. Ma professor Messa, lei ha detto dobbiamo anche produrre una certa quantità di urina. Noi non possiamo misurare quanti litri di pipì facciamo. Ci dà comunque un'indicazione? Sì. O quante volte al bagno per fare pipì dobbiamo andare? Certo. Oppure se ci sono degli altri indicatori, penso ad esempio al colore della pipì, ci può dare un'indicazione del fatto se siamo idratati in modo corretto? Certo. Oppure no? Certo. Sa che noi a Cuore Denari siamo spicce, eh? Ecco, perché sì, lo molto so. Pratico. No, cerchiamo di entrare appunto in pochi consigli, diciamo quasi culinari pratici. La primo modo di misurare quanta pipì facciamo in una giornata è ovviamente avere memoria di quante volte siamo andati in bagno, sapendo, e se una volta ogni tanto noi sappiamo che quando abbiamo lo stimolo ad urinare, perché magari in qualche momento l'abbiamo potuto misurare, se non l'avessimo mai fatto lo si può fare una volta tanto, capire quando noi abbiamo lo stimolo ad urinare quanta urina facciamo, che ne so, 200 millilitri, 250, quello che è cioè un quarto, un quinto di litro, e poi moltiplicarlo per il numero di volte in cui abbiamo avuto lo stimolo e siamo andati ad urinare. Questo è un primo parametro abbastanza facile da ottenere. Un secondo è quello a cui accennava lei. Se io vedo le urine abbastanza scure, nel senso di cariche, di giallo ambrato, abbastanza diciamo più intenso, se le vedo molto liquide, fino a molto limpide come acqua di roccia, come si suol dire quando proprio sono molto ben diluite, una via intermedia del colore, diciamo da questo colore molto carico a quello da acqua di roccia, ci dirà indirettamente se i nostri reni stanno concentrando di più o di meno. È chiaro, più concentrano i reni, più vuol dire che l'acqua che hanno a disposizione è scarsa. Più diluiscono, più vuol dire che l'acqua a loro disposizione è in abbondanza. Un terzo possibilità è quella di andarsi a misurare il peso corporeo ogni giorno. È difficile aumentare di peso, nel senso di aumentare la propria massa magra di più di mezzo chilo o di un chilo. Modificazioni in su o in giù di peso molto troppo rapide ci dicono che noi stiamo perdendo evidentemente almeno una quota di acqua in più sia rispetto a quello del giorno prima. Quindi un calo troppo rapido di peso molto spesso può voler dire una disidratazione più che un auspicato dimagramento, auspicato per alcuni. Giuseppe, buongiorno, ci chiama da Cesena, benvenuto. Buongiorno, come state? Noi stiamo bene, direi che ce la passiamo abbastanza bene, Giuseppe. Sta bene, la Debora è qua, che è una bellezza, è abbronzata ma pure. Ma beve poco. Allora, no, Giuseppe. Bisogna bere. Allora, io parecchi anni fa ho fatto un'altra telefonata sempre sul bere e ho ricevuto un rimprovero, però questo rimprovero non l'ho ascoltato. Ha fatto bene. Perché? Perché io bevo al mattino presto, come mi alzo, siccome devo assumere due medicinali perché ho fatto tre bypass, bevo direttamente dalla bottiglia 1,5 litri d'acqua. Sì. Proprio garganella, ormai l'abitudine. Beh, 1,5 litri mi sembra tutto d'un botto. Una bottiglia, sì, esattamente. Mamma tutto mia. D'un botto. Una bottiglia non mi dà nessun fastidio. Sono bottiglie speciali mie che ho dovuto realizzare, perché bere da una bottiglia normale la bocca è talmente piccola l'uscita. E quindi, insomma, si è costruito addirittura una bottiglia su misura. Ma Giuseppe, venga al punto, perché sì, sentiamo le mie bottiglie per poter bere comodamente. Ma la sua domanda, Giuseppe, qual è? Io poi bevo durante la giornata altre due bottiglie d'acqua. Quindi insomma fa una grande scorta. Professor Messa, a parte la bottiglia, che Giuseppe è anche creativo, si è costruito la bottiglia, potrebbe diventare un imprenditore. Magari, vero? Allora, volevo chiederle, ma c'è il rischio di bere troppo? Ma allora, è evidente che il bere troppo può essere un problema in alcune condizioni di malattie specifiche. Ma fra se uno sta possono, bene? Fra cui ci potrebbero anche essere delle malattie evidentemente cardiache, che non mi sembra siano il caso del nostro amico, che evidentemente riesce a bere e ad eliminare quest'acqua tranquillamente senza nessun problema. È evidente che in quelle condizioni di malattia la assunzione eccessiva di acqua può creare un problema. Ecco, perché c'è chi pensa, e me lo stanno anche scrivendo, ma me l'ero appuntato, che bere tanta acqua sia in qualche modo affatichi i reni, li faccia lavorare troppo, perché devono filtrare tutta. Ecco, bravo, non marciscono, diciamo, professor Messa, ma no, è vero. Sicuramente nessuno ha mai dimostrato che marciscano. Ecco. Diciamo che come tutti gli eccessi, questo in biologia è una condizione che noi siamo abituati a verificare ogni giorno, tutti gli eccessi possono portare evidentemente in teoria a condizioni di patologia, ma non perché i reni si sovraccarichino, ma perché poi per eccesso di introduzione idrica esistono infatti alcune condizioni anche patologiche dal punto di vista psichiatrico vero e proprio, in cui l'assunzione di acqua supera la quantità che i nostri reni riescono ad eliminare, creando addirittura il problema opposto di una iperidratazione con un abbassamento anche delle concentrazioni di alcuni elettroliti nel sangue molto importanti, come il sodio principalmente, ma anche altri elettroliti, con conseguenze anche gravi per la salute. Io direi che molto spesso in una scala di grigi manteniamoci in quelle che sono le fisiologiche modificazioni dell'introduzione idrica, che possono andare dal troppo poco, al di sotto per esempio del litro, all'eccessivamente agli eccessi assoluti che possono essere sopra i 4, 5, 6 litri al giorno, che a meno che non si abbiano patologie in cui è necessario bere tanto, non ha senso bere. Direi che in una normale distribuzione della nostra giornata poter assumere 2 litri di acqua, 2 litri e mezzo, anche 3, sicuramente non produrrà nessun problema ai nostri reni, a meno che non ci si trovi in quelle condizioni di malattie, alcune malattie cardiologiche, alcune malattie renali stesse, alcune malattie del fegato, ma stiamo parlando di malattie in cui il medico darà l'indicazione specifica e precisa a non bere più di un tot. Ma al di fuori di queste prescrizioni specifiche, quindi parliamo della popolazione generale, in un ambito abbastanza vario di introduzione idrica, i reni non si affaticano né in un senso né nell'altro. Quindi possiamo vero è stare tranquilli. Sì? Il problema vero, professore? Il problema vero è che quando ne hanno troppa poca a disposizione, ovviamente i reni sono costretti ad eliminare molte sostanze che devono necessariamente eliminare in una quantità di acqua troppo bassa, per cui la concentrazione di queste sostanze aumenta e qui interviene il problema del possibile rischio che alcune di queste sostanze precipitino formando dei piccoli cristalli che diventano inizialmente una sabbiolina e poi possono diventare veri e propri calcoli. Ecco, e tanto per questo io ho detto prevenire è meglio che soffrire, perché chi ha provato la colica, e molti dei nostri ascoltatori l'hanno fatto, perché raccontano un dolore che taglia a metà, alcuni anche ascoltatori uomini dicono che sia peggio del dolore del parto, però non si capisce come abbiano provato loro, ma per sentito dire. Allora, io voglio salutare anche la dottoressa Elisabetta Macorsini, buongiorno, biologa e nutrizionista all'ospedale Humanitas Mater Domini, con cui vogliamo aprire una piccola parentesi. Diciamo, abbiamo sottolineato col professor Messa che è importante bere, ognuno ha i suoi gusti, le sue preferenze, noi le rispettiamo tutte, c'è chi beve l'acqua del sindaco, chi utilizza le caraffe filtranti, chi preferisce acquistare acqua minerale in bottiglia. Secondo il Censis, noi italiani siamo dei grandi consumatori di acqua in bottiglia, i dati ci dicono il 61,8% delle famiglie italiana acquista acqua minerale, le acque minerali sono tutte diverse, ciascuno ha la sua, non solo le scegliamo in base ai nostri gusti, ma sarebbe anche interessante capire e leggere un pochino meglio l'etichetta, perché magari può darci dei suggerimenti per degli acquisti più mirati. Dottoressa Macorsini, leggere l'etichetta dell'acqua minerale è complicato? Perché non è complicato assolutamente, anzi io sono contenta che mi abbiate invitato a parlare proprio dell'acqua, perché l'acqua in realtà è proprio un alimento, quindi viene considerato un alimento base all'interno della fatidica piramide alimentare. Quindi allora, lei ci darà tre indicazioni, lo dico ai nostri ascoltatori, dopo le informazioni sul traffico, che cosa leggere, quale dato guardare sull'etichetta dell'acqua minerale. Tu la guardi quando vai a prendere le casse? Ovvio che no. Ecco, neanche io, perché sono lì uno per io vado di gusto personale. Carica. Esatto. Io prendo di gusto personale quella dell'offerta, quella del sindaco, bevo. Poi ritorniamo subito dopo insieme, e se avete avuto esperienza di calcoli renali o qualcuno in casa vostra, ricordate, c'è il professor Messa sino a chiusura di trasmissione pronto per dare delle indicazioni. 800 24 00 24, ci fermiamo ma ripartiamo subito, a tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. bredaportoni.com vi presenta Cuore e Denari. Andiamo insieme alla dottoressa Elisabetta Macorsini ad acquistare l'acqua minerale. Scegliamo quella giusta per noi. Si può scegliere in base al gusto, in base alle offerte. Siamo qua a cuore denari, magari quelle che al supermercato ci dicono è in offerta e uno se la porta a casa. Ma dottoressa Macorsini, rapidamente, due indicazioni per capirne di più. Senz'altro. Allora, prima di tutto cerchiamo di leggere bene le indicazioni delle tre acque che possono servirci di più. Allora, la prima senz'altro è l'acqua iposodica, che deve avere un contenuto di sodio, ed è indicato benissimo sulle etichette, inferiore ai 20 mg, che sono indicate proprio a noi donne, magari per aiutare a eliminare i liquidi in eccesso. Banalmente poi abbiamo quella calcica, sempre dedicata a noi donne, che ha un contenuto di calcio superiore invece ai 150 mg litro. Anche questo lo troviamo tranquillamente in etichetta e aiuta proprio in gravidanza e menopausa e proprio per prevenire l'osteoporosi e in alcuni casi anche l'ipertensione. Un'altra acqua che può essere molto interessante è l'acqua bicarbonata, che ha un tenore di bicarbonato superiore ai 600 mg, anche qui lo troviamo benissimo in etichetta, che ha un'azione antinfiammatoria, può aiutare la digestione e quindi può essere d'aiuto in alcuni casi. Dottoressa, per le persone che praticano sport con questo caldo e sudano molto, quale acqua consiglia lei? Allora, prima di tutto bere tanta acqua e poi appunto per chi pratica molto sport anche a livello professionale ma anche amatoriale è importante scegliere un'acqua ricca di sali minerali, quindi calcio, sodio, potassio, magnesio e cloruri, che aiutano a reintegrare gli elettroliti persi a causa proprio della sudorazione. Quindi un'acqua ricca di calcio e di magnesio per aiutare appunto la stanchezza, e quindi quella proprio magnesica con un tenore di magnesio superiore ai 50 mg litro, che è proprio un aiuto notevole anche contro lo stress. Allora, io vengo a comprare l'acqua minerale con lei, esatto, dottoressa, perché ne scopriamo e torneremo sicuramente su questo tema, ma per i bambini piccoli, così rispondiamo a Maria che ci ha mandato un WhatsApp. Ci sono delle indicazioni particolari, dei suggerimenti, sempre che uno voglia scegliere l'acqua minerale, perché anche l'acqua del rubinetto va benissimo, cioè non stiamo qua cercando di fare un confronto acqua minerale, andiamo oltre, noi ci rivolgiamo alle persone che decidono per gusto personale di acquistare l'acqua in bottiglia, punto. Dottoressa, bambini? Ma io una piccola cosa vorrei dare per i bimbi, ma proprio per diciamo una prevenzione delle carie dentarie, può essere un'acqua con un contenuto di fluoro superiore all'1 mg litro, ma questo in caso in cui ci sia una famiglia predisposta alla carie, ecco, se no semplicemente un'acqua ricca di calcio che può aiutare il piccolo nella crescita. Grazie dottoressa grazie Macorsini, ci sentiremo presto e noi torniamo dal professor Messa. Professore, allora abbiamo detto che dobbiamo bere, i reni funzionano, vanno ad acqua, come dico io, non proprio così, ma insomma un po' di acqua per funzionare, insomma, la gradiscono. E noi stiamo invitando le persone a bere per evitare, no, prevenire meglio che soffrire, perché questa è una stagione in cui chi è particolarmente predisposto e in una serie di condizioni può incontrare un dolore che, come mi scrivono, taglia a metà quello della colica renale, e sono davvero dolori. Qual è l'identikit della persona potenzialmente a rischio, professor Messa? Guardi, per la verità non c'è una categoria di persona che può essere dichiarata a priori fuori da questo rischio, visto che la calcolosi urinaria è una delle malattie più frequenti, anche più comuni, pur essendo nella stragrande maggioranza dei casi una malattia benigna. È chiaro che colpisce molto di più le fasi della vita attiva, cioè il giovane adulto, e in generale la prima colica avviene nell'età proprio giovanile o giovane adulto. Ma e non si scorda mai, come l'amore. Scorda mai, assolutamente è difficile sbagliare la diagnosi di una colica renale, perché il paziente e le donne che hanno avuto anche l'esperienza di una gravidanza dicono con chiarezza che non ha nessuna possibilità di comparazione, cioè la colica è di gran lunga più dolorosa anche del dolore da parto. Detto questo, è un dolore che, mol- che si presenta abbastanza caratteristico, può partire da uno dei fianchi, ma a volte parte proprio dall'addome, specialmente nel bambino è più frequente la localizzazione addominale, quasi sempre questo dolore molto violento che non trova e non fa trovare nessuna posizione in cui possa in qualche modo minimamente ridursi, che si propaga molto spesso verso il basso, verso i genitali maschili e femminili, è spesso accompagnato da nausea, da vomito, più raramente da febbre, e il paziente ha un dolore che non lo lascia fermo in nessuna posizione. Ed è caratteristico sicuramente dopo la prima volta chi fortunatamente ha esperienza di successive coliche, che in generale sono sempre un po' meno forti della prima, ma comunque le riconosce bene in anticipo e a volte addirittura incomincia a prevedere già quali possono essere i perché riconosce i segnali anticipatori, i segnali preliminari, diciamo, di questa colica che sta per venire, come un certo malessere generale, una dolenzia, un po' di nausea, e pensa adesso mi riviene una colica. A chi, e ce ne sono di casi, è abituato ad avere delle ripetuti episodi di formazione di dei calcoli. Professore, abbiamo gli ultimi due minuti di trasmissione per così dare dei consigli di prevenzione. Ad esempio, ho sentito dire che è vero che le vitamine aumentano il rischio di calcoli? Allora, questa affermazione detta così potrebbe essere fuorviante. Sicuramente l'eccesso di vitamina D, specialmente se associata a preparazioni di sali di calcio, e l'eccesso di vitamina C, intendiamo per eccesso una sopra utilizzazione di queste vitamine, può predisporre alla calcolosi sia calcica che ossalica, che cioè di calcio ossalato, che sono poi le calcolosi sicuramente più frequenti nella popolazione generale. È evidente che nei pazienti che fanno uso di queste vitamine bisogna monitorizzare anche alcuni aspetti del metabolismo del calcio e del fosforo, e sicuramente in questi pazienti la quantità di acqua da assumere deve essere sicuramente superiore. Quindi l'indicazione, ho posto la domanda in modo così alla brutta, ma l'indicazione è: quando noi decidiamo di assumere delle vitamine, parliamone con il nostro medico, dottor professor Messa, perché poi ci sono degli effetti, no? Non posso definirli collaterali, ma insomma è meglio essere informati. Lo informiamo, raccontiamo anche questa al nostro medico. Professore, un messaggio conclusivo in un minuto? In un minuto: bere di più, mangiare sicuramente molto più cibi vegetali, specialmente d'estate, e frutta, ridurre i cibi carnei, muoversi di più, evitare la sedentarietà e possibilmente avere un'alimentazione il più varia possibile. L'acqua va bevuta durante tutta la giornata e non distribuita solo o ai pasti o solo in particolari ore, perché i nostri reni lavorano H24, come si suol dire adesso, e quindi hanno bisogno di un apporto d'acqua costante, continuo e aumentato. Grazie al professor Messa per essere stato con noi, per la sua chiarezza. Mi piace, questa coppia lavora H24, noi no H24, ma insomma, però domani tutto... siamo ancora qui. Esatto. Professor Messa, grazie. Ce l'abbiamo. E il 24 ce l'abbiamo. Assolutamente. Allora, sì, abbiamo terminato anche oggi, noi torniamo domani con temi sempre avvincenti ed interessanti per i nostri ascoltatori. La modestia non è di questa casa, naturalmente. Va bene, dai Carmelo, bevi anche tu un po' d'acqua. Andate a bere, su forse. Ciao, buona giornata. A vedere se ci avete qualche polizza dormiente nei cassetti, va. Buona giornata.